Non ho visto personalmente il manifesto, ma il Corriere della Sera assicura che in questo manifesto sia visibile un pallone da football, nonché la scritta: nel calcio in politica c'è chi si è comportato sempre bene, vota zio Bergomi. Fa parte questo manifesto della campagna elettorale di un signor Bergomi che, presentandosi con zio e pallone, mirerebbe palesemente ad uno scambio di persona. Nel mondo del calcio Bergomi rappresenta un telecronista, oggi un ex terzino dell'Inter e della Nazionale, un campione del mondo del lontano 1982, un avvalorato dunque, ecco, un avvalorato da storia propria e storia altrui, sufficientemente avvalorato da far gola ad un signor Bergomi che, ecco, sarà anche zio, perché poi zio non è difficilissimo esserlo, ma magari campione del mondo non lo è di sicuro. È il caso, allora, di un candidato che cerca con tutte le sue forze di non essere se stesso di fronte all'elettorato. Preferisce che qualcuno lo voti credendolo un altro, piuttosto che qualcuno lo voti per le sue virtù. Pare sfiduciatissimo nei confronti del proprio bagaglio di valore e, approfittando di un'omonimia, prova a splendere del valore altrui. Obbedisce all'impulso di cercare l'inganno ulteriore, è come se nella candidatura elettorale di questi nostri anni di fragilissime, impalpabilissime, superfluissime convinzioni politiche non ci fossero già inganni a iosa. Un caso analogo, per certi versi, è quello di quel signore che scrive una lettera a casa dei suoi potenziali elettori scegliendo invece, ecco, la verità più indiscutibile. Allora, dopo aver vantato la maturità classica con 60 sessantesimi, la laurea all'Università Cattolica a pieni voti, qui doveva mancargli qualcosina, il felice matrimonio allietato dalla nascita di due frugoletti, uno maschio e uno femmina, ben inteso, la libera professione, dopo aver vantato le origini campane, la vita milanese, l'ispirazione umanitaria trasmessagli dalla madre, e infine massimo degli onori, ovvero lo sputo nel piatto prima ancora di averci mangiato, dopo aver vantato il fatto di non essere mai stato iscritto ad un partito politico, dopo tutto questo ben di Dio, si autodefinisce un ragazzo del 1968. Ma, tanto per essere chiari, non un ragazzo del 68 come militante attivo di un'epoca che per qualcuno è un contrassegno di eroismo intellettuale, ma, e per essere chiari chiari, lo riscrive sotto la firma, un ragazzo del 68 in quanto nato nel 1968. Ora, mi sono chiesto perché nascere nel 1968 possa costituire un valore per qualcuno da propagandare e di cui andar fieri, e mi sono reso conto che poi rispondere non era facile. Non potendomi venire una risposta dalla cultura esoterica, numerologia, presunte congiunzioni astrali, antiche profezie, tutti i marchingegni della subordinazione sociale, ho finito col pensare che costui, nel documentare con tanta enfasi la propria data di nascita, abbia voluto attingere esattamente ai valori opposti per i quali il 68, con non poche colpevoli superficialità, rimane nella storia. Come se avesse trovato il modo più esplicito per garantire chi lo vota che lui di quei valori non partecipa, nel 68 è nato e dunque non ne ha responsabilità alcuna. È il caso del candidato che, a differenza del primo, dice la più rigorosa delle verità, ma che dicendola anch'egli inganna l'elettorato. Si fa scudo di una parola, un numero, un anno, e prova a portarsi dietro qualcosa di quel che la parola ha significato per altri, ma al contempo se ne mette al riparo. Per un verso è lui, per un altro no.